2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Decimo podcast per l'altra radio room. Ascolta, decimo podcast per l'altra radio Roma. Ascolta, decimo podcast per l'altra radio Roma. Salve amici di un'altra Radio Roma, come state? Chi vi parla è DJ Gasperino, ma dove mi state ascoltando, A casa affaccendati? In palestra mentre sudate? Sulla metropolitana? Al bar mentre bevete un caffè? Sui mezzi pubblici mentre andate al lavoro? Beh, il posto giusto per ascoltare un podcast che vi faccia passare un'ora lo trovate voi. Alla musica libera e alle chiacchiere ci pensiamo noi, quindi non ci resta che iniziare. Immediatamente dopo la sigla ci andremo a sentire l'opera 47 di Robert Schumann, ma tutto questo dopo la sigla. Un'altra radio Roma. Si è svegliato! Buongiorno, signor Marchese. Buona giornata, eccellenza. Dormito bene, signor Marchese? Oh, ma che è qui? Ando sto, oh. Signor Marchese, nel suo palazzo. Nel mio palazzo? Ma che cazzo sta di? È il palazzo, signor Marchese. Io sono Gasperino il Carbonaro. Ma signor Marchese... Ah, ma basta con sto Marchese! Mamma mia, l'ho rotto i coglioni! Un'altra radio. È una radio che potrebbe avere effetti indesiderati e anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Io sono Gasperino il Carbonaro. L'opera 47 di Robert Schumann, suonata magistralmente dai Warhol Piano Quartet, composti da Andrea Feroci, pianista, Filippo Fattorini, violinista, Alessio Toro, violista, Giulio Ferretti, violoncellista. Perché ho scelto un pezzo classico? Fondamentalmente perché credo che questo genere musicale inviti tutti noi a una tranquillità maggiore, visto il tipo di vita frenetica che abbiamo. Curiosità. Clara Schumann, nel suo diario, scrive: «La sera abbiamo suonato per la prima volta a casa nostra il quartetto, in mi bemolle maggiore di Robert. E ancora una volta sono rimasta incantata da questa opera così fresca e così giovanile. Composto nel 1842, il quartetto rivela subito una felicità di scrittura che dà ulteriore risalto alla tinta assegnata agli archi da Schumann». Thank you. avevo voglia di iniziare con un po' di musica classica. Ma non temete, perché vi aspetta tanta musica libera, scaricata liberamente per voi, selezionata da me e trasmessa attraverso questa radio. Siete pronti? Il prossimo pezzo è dei Mechanical Butterfly, che dall'opera omonima ci presentano Mechanical Butterfly. Pronti ai posti. Pronti per essere lanciati, ho i Criti Boom con il loro The Spine Blues. We'll be right back. Questi erano i Kriti Boom con The Spine Blues. A seguire ho deciso di passare verso la musica jazz. Il primo gruppo che vi propongo si chiamano Gli In Vivo, che fanno un jazz più un funk. Con la traccia Tuesday Morning potrete sicuramente apprezzarlo. Successivamente ci sentiamo un acid jazz con i Zion, che ci presentano After Hours. Ma adesso Gli In Vivo con Tuesday Morning. Tuesday morning, boring day. It's raining and alpha laser. The pain, I don't care. Everybody say it's unfair. Tuesday morning, a poor day. No will, no drugs, no cigarettes. I'm waiting for nothing. Everybody say it's boring. Stupid bird was singing and eating bread. Who say time is money? If it's true, I can't see. And I do this every day. So come on, everybody, and buy my Tuesday. We'll be right back. brain in an alpha laser. The war, the pain, I don't care. Everybody say it's unfair. To them on anger per day. Nowhere, no drugs, no cigarettes. I'm waiting for an awesome. Everybody say it's wrong. We'll be right back. lasciamo da parte il mondo del jazz e avventuriamoci verso il mondo del rap, quello di casa nostra. Loro sono i QGS che ci presentano il brano Keep It Simple. Ricorda, lo hai ascoltato su un'altra radio. Roma. Roma. Roma. Che riporta ricordi di mille storie, dove porto il quando il come. Rimango anche se non c'è una ragione, perché so che un altro sole porta una realtà peggiore, ma si pone un volto di silenzi che si colmi. Nuovi giorni, lo so bene, porteranno nuovi solchi, nuovi segni sul mio volto che vedrai non si cancellano, che rendono più grande dentro l'animo. Esperienze in un ambiente che ti riempie, che ti piega sulle mani, c'ho la linfa della vita e scorre ancora. La gente così fredda non considera me, sta congelando i sentimenti, si assidera. Non puoi ignorare quel calore quotidiano, il caldo della folla lo sentiamo. Non rispondere se chiedono chi siamo, noi restiamo dove siamo. QGS punta a capo, una nuova puntata senza una fine, né un commento, noi cresciamo. Ma quel che rimane è solo silenzio. Noi cresciamo, ma quel che rimane è solo silenzio. Sto pensando ai giorni che vivo dentro una cornice che mi stringe. Non sto più ad aspettare, perché non c'è da sperare. Lottare dentro una realtà che non convince. Guarda, il sole entra piano nel mio piano e sono pronto, pronti ad ascoltare ciò che dice il nuovo giorno. Io sono vero, non mi mettere in vetrina, non capisci ciò che per me è la dottrina. Lascio punti di visione come fa l'importo. Io sono ciò che porto, illumino il tuo mondo. Non so se mi hai capito, sono ricco di valori, do poca importanza al come sono fuori. Vivo occhi aperti al cielo, poniti dal suolo. Ho capito finalmente qual è il mio vero ruolo. Ho uno scopo vivo unico, sono in bilico. Resto vivo perché il tuo giudizio a darmi forza, allora dimmelo. Dimmi cosa pensi, mi hai di fronte, adesso dimmelo. Se fossi moda sarei sempre in movimento, parli con l'abito, io con chi c'è dentro. È un déjà vu troppo visto in questo tempo. Io non ci credo, ora ti spiego per esempio. Se ti ricordi quelle volte quando non girava niente, cercavi nuovi sbocchi quando tutto era presente. Il palco era alla posta, credo l'emittente che porta la mia voce, la stazione QGS. Credo l'emittente, la stazione QGS. Sto pensando ai giorni che vivo dentro una cornice che mi stringe. Non sto più ad aspettare, perché non c'è da sperare. Lottare dentro una realtà che non convince. Ascolta, ricordi concreti come miracoli. Le scie delle frequenze ci sono, sembrano starci. Piovono le gocce di suono pronte a bagnarci. Il sole come ragione trafigge con i suoi raggi. Ascolta ancora adesso, sarà nuove meraviglie. Situazione dove perdi tutto ciò che ti ferisce. E se per te ciò non esiste, se tu sarai la goccia in sto terreno, tutto attorno rifiorisce. Allora cambia tu la storia. Se l'uomo muove 100 passi poi diventano memoria. E se nemmeno ciò ti cambia, allora prova ad ascoltare dietro te chi ti accompagna. Era vero se pensavo che non era il tempo perso, ma era il tempo che era ladro. E nemmeno immaginavo che non erano fogli pieni, ma era tanto che imparavo. Io coloro su coloro che cancellano, disegno su un'iposca indelebili argento. E se senti il mio pezzo un po' più spesso, è perché ogni insulto poi ci passerà attraverso. Se ci separano chilometri di lettere, non è per la canzone ma per la voglia di non smettere. La prendiamo easy, tranquillo, simple. Scegli il sinonimo, check, ancora beatru. Sto pensando ai giorni che vivo dentro una cornice che mi stringe. Non sto più ad aspettare, perché non c'è da sperare. Lottare dentro una realtà che non convince. Sto pensando ai giorni che vivo dentro una cornice che mi stringe. Non sto più ad aspettare, perché non c'è da sperare. Lottare dentro una realtà che non convince. Sto pensando ai giorni che vivo dentro una cornice che mi stringe. Non sto più ad aspettare, perché non c'è da sperare. Lottare dentro una realtà che non convince. Silenzio che mi dà concentrazione, che riporta ricordi di mille storie, dove porto il quando il come. Rimando anche se non c'è una ragione, perché so che un altro sole porta una realtà peggiore, ma si pone. Dei QGS abbiamo ascoltato Keep It Simple, un brano del 2009, un rap tutto italiano. Adesso ci avviciniamo a un genere, che è quello ska. Lo ska ha un'ascesa musicale popolare proprio nei primi anni 60, quando la Giamaica ottiene l'indipendenza dalla Gran Bretagna. Le caratteristiche generali di questo genere musicale risultano una mescolanza tra la strumentazione elettrica e i fiati solitamente usati nella musica jazz, ovvero il sassofono, la tromba e il trombone. Quello appena detto sarà confermato dal gruppo che ci stiamo per ascoltare. Loro sono i Marasma General, che ci presentano La Strada. You can take in this time the right road of your life. If you want, take your car and buy the whistle running. Buy the whistle running. Buy the whistle running. On this car. Poco e consulti un oracolo, poco di più, vedi un miracolo sulla strada. Tutto è fattibile, il sogno più strano è raggiungibile. Ti guarda e ti tocca e con un soffio impossibile ti graffi addosso un segno indelebile. I occhi si incrociano, scrutano e passano, e alcuni di questi con inchiostro leggero, con piccoli e dolci tratti di nero, disegna il ricordo di un sogno vero. È un libro, sì, è un libro già scritto. Diverso percorrere il mondo, piedi distratti sono solo sfondo di vite frenetiche vissute sognando la vita del papero con simbolo il soldo. Donatori, cioccolieri, marivuoli e puttanieri, madri stanche che ogni giorno sia sempre uguale a ieri, ragazzi già vissuti, già vecchi e già svuotati, ed altri inseguitori di sogni mai arrivati. Madri per cui non sono mai nati, padri che pagano gli errori passati. Profonde, orme invisibili, sono le tracce di colori incredibili, immagini brividi e film impensabili. È un libro, sì, è un libro già scritto. Una delle caratteristiche dello ska è che la chitarra va a enfatizzare il levare anziché lo scendere, ossia la battuta in levare anziché il downbeat, dando così una caratteristica dalla seconda, dalla terza, alla quarta battuta. Il cosiddetto afterbeat è quindi essenziale per creare il genere sincope ritmico giamaicano. Sempre per quello che riguarda lo ska, andiamo a sentire un gruppo che si chiama Kiss Up con il brano Mr. President del 2009. Buon ascolto, buon ascolto, buon ascolto, buon ascolto. Dove troviamo? Ma che? Non so! Non so. Ma quante ne sappiamo qui su un'altra Radio Roma? Avete sentito quanta musica vi proponiamo? Di diversi generi, di diversi gusti. Sicuramente puoi trovare il tuo. Facci sapere qualcosa. Mandaci un'email su quello che vi proponiamo qui su un'altra Radio Roma. Sono andato a ricercare all'interno dei nostri archivi fino a trovare un album del 1993. Loro sono i DDE, l'album è Fanculo i suoni puliti e la traccia che vi propongo è Manicomio. Provate a calarvi nel personaggio della canzone e vi sentirete veramente fuori come dei matti. potita le catene e gli avistelli. Diventando scemo, ma mi sembra così belli. Manicomio! Che casino, trovi il vecchio di bambino. Manicomio! Che modello, a me piace solo quello. Manicomio! Che casino, trovi il vecchio di bambino. Manicomio! Che modello, a me piace solo quello. Dentro cose strane, se ne vedono sai tante. Vecchio croci fitto, è un bambino con tubante. L'infermiera arriva con il mio nuovo lucchimaio. Camicione bianco che si allaccia in modo strano. Manicomio! Che casino, trovi il vecchio di bambino. Manicomio! Che modello, a me piace solo quello. Manicomio! Che casino, trovi il vecchio di bambino. Manicomio! Che modello, a me piace solo quello. Manicomio! Sia su ordinazione è ordigno. Il costruttore di ordigni può produrne molti, nient'altro procurandosi che stanchezza per il lavoro manuale. L'oggetto può essere talvolta ironico, l'ordigno lo è sempre. Sono passati tempi in cui, vorace economizzatore, spendevo tutto, investendo i miei soldi, molti, perché erano il mio seme e io ero sempre in erezione. Nell'acquisto di aree di bassissimo valore, che sarebbero state valorizzate da lì a 2-3 secoli. Ora Tolemaico, essendo un ragazzo, e contavo l'eternità per l'appunto in secoli, consideravo la terra il centro del mondo, la poesia il centro della terra. Tutto ciò era bello e logico. Del resto, che ragione avevo di non credere che tutti gli uomini non fossero come me? Poi, invece, si sono rivelati tutti di me molto migliore. E io sono risultato essere piuttosto uomo di razza inferiore. Ricambiai l'apprezzamento e capii che non volevo più scrivere poesie. Ora però, ora che la vocazione è vacante, ma non la vita, non la vita, ora che l'ispirazione, se viene, versi non ne produce, vi prego, sappiate che sono qui pronto a fornire poesie su ordinazione. Ordini, Pierpaolo Pasolini. È già passata un'ora da quando avete incominciato ad ascoltare questo podcast, un'ora in cui abbiamo ascoltato della buona musica, ma soprattutto della musica libera, perché The Music is Free. L'ultimo brano che vi vado a presentare mi ha permesso un piccolo ragionamento che vi dono così in uscita. Ogni mattina mi alzo per recarmi sul posto di lavoro, perché voi mica crederete che questo sia il nostro vero lavoro. La musica per noi è passione e cerchiamo di metterla in questa radio. Ritornando al concetto, vado alla stazione, sono un pendolare e prendo la metropolitana. Prendere la metropolitana ha dei vantaggi e degli svantaggi, come tutte le cose. I vantaggi che vado ad osservare potrebbero essere tantissimi. In primo luogo ci permette di non inquinare utilizzando delle macchine magari per una sola persona per percorrere decine e decine di chilometri, bruciando della benzina e inquinando. In secondo luogo ci permette di conoscere la gente che ci circonda, la gente che vive il nostro stesso tempo. I vantaggi potrebbero essere anche altri, quelli di leggere un buon libro, ascoltare buona musica e via dicendo. Però osservare le persone ha fatto sì che ai Rain, che nella loro opera Occidente, hanno scritto una traccia che si intitola I tram di Roma, che è quella che sto per passare, che inizia con le seguenti parole. I musicisti portano un poco di estasi sui binari dei tram di Roma, tra palazzi di plastica e sorrisi di cemento. Anche questo, in fin dei conti, è dignità. A voi tutti auguro un buon ascolto e buone cose. Da. DJ Gasperino, Gasperino, Gasperino, Gasperino, Gasperino. E i musicisti portano un poco di est sui binari dei tram di Roma, tra palazzi di plastica e sorrisi di cemento. Anche questo è un fin dei conti e dignità. Dignità per pochi sguardi di chi ha occhi troppo spesso affascinati da chimere di cartone, ma che scompaiono nell'aria per il suono di un violino, di un violino che non ha più frontiere. La musica va tra i sedili, tra i binari e tra la gente. È una giostra in questa città. C'è chi sale, c'è chi scende, c'è chi non importa niente. Al palazzo delle accuse, per i ranghi del progresso ci rinfacciano un po' di nostalgia. Loro cambiano la pelle, sono al passo con i tempi e riparlano di pace e libertà. E ora scrivono un futuro dentro al vuoto del presente e su radici di seconda mano. Hanno sogni di ricambio e speranze su misura e gli orizzonti chiusi dentro alle città. Va la musica, va tra i sedili, tra i binari e tra la gente. È una giostra in questa città. C'è chi sale, c'è chi scende, c'è chi non importa niente. Ovunque soffi un po' di libertà, troverai questi mercanti di poesia e di speranza addormentati in riva all'umanità. E apri bene le tue orecchie perché il gioco si fa serio. Ora che i seri hanno altro a cui pensare, ora che suona questa storia per il Dio degli sbandati, di chi ha perso, di chi non ha città. Come on. sono Gasperina il Carbonara. Un'altra radio. Roma. Radio. Radio. Radio. Un'altra radio. Roma. E dove stanno queste botti e ste bottie, oltre che a casa tua? Giù in cantina. Allora io vado in cantina. E tutta una... Ad ascoltare un'altra radio.